9 in punto, la versione di Oscar. Torno ad augurarvi buon inizio di settimana, un buon lunedì, un complicato inizio di settimana di ottobre. E come si vede, i mercati non è che vadano chissà come. E chi pensava che la crisi fosse alle spalle forse si illudeva. E allora abbiamo deciso, siccome però compiamo gli anni oggi, che malgrado questi accenni un po' pesanti a come vanno le cose rispetto alle speranze, oggi ci vogliamo regalare e vogliamo regalare a voi che siete in ascolto, non dico un po' di speranza, ma la storia della speranza della radio italiana, almeno per quello che mi riguarda, perché ci fa il regalo di essere con noi per i prossimi quarti d'ora e magari pure di rispondervi a qualche domanda se volete rivolgergli. Intanto il numero è 800 24 00 24, come sapete, per gli sms 349 238 6666, e per le mail 9@radio24.it. ci fa questo strepitoso regalo Renzo Arbore, che vado a presentare dicendogli che gli darò del voi. Però, don Renzo, mi dovete consentire questa cosa. Come state, don Renzo? Io sto benissimo, vengo da una tournée lunghissima che è finita l'altro giorno a Taranto, l'altro ieri, e dopo essere stati a Lampedusa da Claudio Baglioni per quella famosa manifestazione che si chiama Oscià, un bel successo, eccetera. Ma insomma, adesso finalmente mi riposo, però la mattina vengo chiamato da radio. No, infatti io ero un po' in ambascia, non Renzo, perché temevo che non ce la facessimo a buttarvi giù dal letto, a dire la verità, anche se questa cosa che voi dormite fino a tardi è vero o è falsa? No, è falsa. Era vera quando, sì, quando ero quello della notte, naturalmente, anni fa, andando a letto dopo la trasmissione, dopo la cena con tutti gli amici, dopo le cose, certo mi svegliavo alle 11. Adesso no, adesso mi piace svegliarmi, insomma, abbastanza presto, diciamo verso le 8, leggere tutti i giornali, fare le mie cose, la colazione lunga. Sì, insomma, un po' il risveglio del giovin signore. Ti ricordi questa poesia che si studiava a scuola? E come no, mi ricordo, perché io quando andavo a una scuola nella mia Torino operaia, in cui io frequentavo i figli di giovani signori, e mi veniva in mente che Parini aveva ragione, perché erano passati un po' di anni, ma la situazione era tale quale. Voi invece, eravate... Non posso permettere, perché ho l'età, certo, quando era difficile fare la sveglia così, ero io stesso che mi preparavo la colazione, facevo la spremuta, le cose, il caffè. Don Renzo, ma io non ho mai capito una cosa: voi siete nella Foggia in cui siete nati e cresciuti, eravate figli di un medico, ma stavate molto bene, bene o relativamente bene all'epoca? Guarda, no, stavamo relativamente bene. Noi la fame, anche pur essendo papà stato un dentista, forse il dentista più importante di Foggia, quello che aveva proprio la fila fuori dell'ambulatorio, però i soldi erano pochi, poi la guerra, il dopoguerra, i soldi soprattutto ai figli non venivano dati, perché l'argent de poche, cioè la spaghetta, serviva proprio per le spese minute, non potevi neanche permetterti la pizza, perché papà diceva che i soldi in tasca li avevano i vagabondi, quelli che portavano vizi. E quindi, però, insomma, la famiglia ha mangiato, ma naturalmente erano anni duri, insomma, dopo guerra non è che si eccetera. Quindi l'ho provata, poi sono stato a Napoli, poi lì ho vissuto per poter far quadrare il mio magro bilancio, ho vissuto anche un po' di stenti, nel senso che non potevo andare in pizzeria, roba del genere, andavo in pensione, mangiavo così, insomma, ho fatto la mia gavetta, diciamo la verità. Oh, adesso naturalmente noi alterneremo un po' di Italia e un po' di America, oltre che qualche spizzico sul mondo, e allora cominciamo subito con un Otis Redding di quelli dannata, con Sitting on the Dock. Questa è roba che ho lanciato io tanti anni fa con Gianni Boncompagni. Ma io proprio con Otis Redding voglio cominciare, dopo che sentiamo qualche secondo di musica, perché c'è una curiosità che mi porto dietro. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed fog of Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. E sfumiamo questa strepitosa canzone che io non so quanti di voi, anche quelli che amano davvero Otis Redding, sappia la storia un po' terribile di questa canzone, perché questa fu registrata praticamente 48 ore prima che Otis Redding morisse schiantandosi in un lago con la sua band, un solo sopravvissuto, ed è un po' singolare quindi la storia di questa canzone. Don Renzi, io vi devo sempre chiedere una cosa, perché io sapevo che la prima volta che voi siete andati in America siete riuscito a incontrare appunto Otis Redding. Cioè, ma come fai a saperlo? Ma è un po' di amici che chiacchierano poi, quindi noi la prima volta che siamo andati in America io e i buon compagni, invitati dalla Atlantic, che era la casa discografica di Otis Redding, ma anche di Aretha Franklin, ma anche di Arthur Conley, ma anche di Sam e Dave, cioè un'etichetta prestigiosissima, sai, le etichette discografiche nere erano due, la Motown a Detroit, quella del Detroit Sound, quindi di Four Tops, di Jackson 5, che era Michael Jackson bambino, di Stevie Wonder e di tanti altri formidabili, Marvin Gaye, eccetera, e poi c'era l'etichetta Atlantic, che aveva una sottoetichetta che si chiamava Stax, che appunto ospitava Otis Redding, Carla Thomas, Aretha Franklin. Quindi è stata una giornata per noi, una specie di sogno, arrivare in questo posto e vedere proprio e toccare e parlare stentatamente in inglese con questi divi che noi, io e Boncompagni, abbiamo lanciato per la verità la radio italiana, perché riuscimmo un anno a fare una hit parade, quella di presentata da Luttazzi, completamente nera. Erano tutti neri questi i cantanti della hit parade, perché Bandiera Gialla, e per voi giovani, pompavano questo genere che si chiamava allora rhythm and blues, adesso si chiama R&B o soul music. E che era la vecchia race music, come si diceva nell'immediato secondo dopoguerra, con un'espressione un po' razzistella. Dovete sapere, Don Renzo, nella mia casetta torinese di fronte alla Fiat, quando voi organizzavate queste rotture terribili rispetto alla radio precedente, mia madre per qualche secondo guardava l'apparecchio radiofonico dicendo: ma che cavolo succede là dentro? Poi di solito metteva la mano alla manopola del volume e tentava disperatamente di spegnerci la radio, perché avvertiva che c'era qualche cosa di... che era meglio non fidarsi, insomma, di tutte queste cose che facevate. Ma davvero, seriamente dico, io me lo ricordo. La prima cosa erano gli urletti delle ragazze, diciamo le galline strozzate, perché prima non c'era, non si era mai sentito alla radio gli urletti di applausi come poi dopo sono diventati una costante, no? Il fanatismo delle teenagers e dei teenagers, quindi quello era quello che dava più fastidio. Poi Boncompagni che parlava con una rapidità straordinaria, io che parlavo con un accento appuro napoletano o napo pugliese, ma insomma con un accento, e quindi era inconsueto, perché allora c'erano gli annunciatori che parlavano, quelli delegati a parlare erano soltanto alcuni annunciatori che avevano studiato l'addizione, che avevano studiato la lingua italiana perfetta, eccetera. No. Direi che siamo stati proprio noi i primi a parlare come ci aveva fatto mamma. Ed è la cosa incredibile è che questo sia avvenuto in anni, insomma, ricordiamolo, stiamo parlando degli ultimi, l'ultimo paio di anni 60, l'inizio degli anni 70, 65, insomma, in un'Italia che era un po', almeno passa alla storia per essere molto ingessata, eppure a volte mi sembra che consentisse delle rotture di forma, di linguaggio anche maggiori di quelle che poi magari capitano l'Italia tanto invece adesso libera e disunita di oggi. Vuoi sapere perché la radio italiana, parlo di Radio Rai, cambiò? Perché furono mandati in Radio Rai, sotto la direzione del professor Leone Piccioni, che è un intellettuale finissimo, molto aperto, alcuni dirigenti che erano stati mandati via dalla televisione. Ah, quindi per via di un'epurazione, insomma. Sì, allora loro per riscattarsi, per vendicarsi di questa epurazione, di questa cosa eccetera, venendo alla radio, che era una specie di sottoprodotto, allora si pensava che fosse una retrocessione andare alla radio rispetto alla televisione, ci concessero di fare una, a tutti noi, insomma, una radio giovane, rivoluzionaria, rinnovata completamente rispetto alla vecchia immagine, sì, ma della radio. Lorenzo, diciamo la verità, quando ad alto gradimento c'era il dottor Marsala che si metteva a enumerare la caricatura, diciamo così, del funzionario Rai indolente, quando si metteva a citare dei nomi un po' storpiati eccetera eccetera, e in realtà poi si riferiva pure a personaggi che c'erano davvero, insomma, voglio dire, non era proprio una cosa così liscia. No, c'erano davvero, in realtà era un personaggio che c'era proprio e che era appunto fiscale come i vecchi dirigenti della radio di allora. Devi pensare che i programmi non erano come questo che stiamo facendo noi adesso, venivano scritti e il copione veniva firmato e controfirmato dal capo struttura, dal dirigente che autorizzava la messa in onda, poi il copione veniva letto o da attori o da annunciatori o da annunciatrici, e quindi, capito, quando cioè, la vera rivoluzione è stata in quegli anni lì, quando ci hanno autorizzato a parlare come parlavamo, e noi stessi che sceglievamo i dischi, perché io sono entrato alla radio come maestro programmatore di musica leggera vincendo un concorso al quale avevo partecipato e avevo conosciuto un compagno di banco che si chiamava Gian Domenico Boncompagni e quindi fummo autorizzati, perché il direttore della radio di allora, Razzi si chiamava, Giulio Razzi, allora fu, pensa, lo dico perché è divertente dire che il direttore della radio era stato scelto perché aveva delle benemerenze musicali, aveva scritto una canzone di successo che si chiamava Non passa più. Don Renzo, posso dire che oggi vengono scelti con tutt'altro criterio, ovviamente non stiamo parlando del direttore Fabio di Radio 24, ma mi pare che i direttori di Radio Rai o di altre cose, mi pare che di esperti per cose musicali o meriti acquisiti musicali non mi pare di ricordarmene molti, ma... Ecco, solo questo è stato l'ultimo che fu scelto per questo motivo. Però... perché allora la radio era soprattutto musica. Allora questo direttore andò negli Stati Uniti, tornò e disse: ma guarda un po' che negli Stati Uniti i maestri programmatori di musica leggera, come ero io, sono loro stessi che presentano i dischi che scelgono e si chiamano dischi jockey. Allora io e Boncompagni dicevamo: noi lo sappiamo, se volete lo facciamo. E lui: va bene, provate. E così furono inventati 4 DJ, eravamo Boncompagni, io, Renzo Nissim, il più antico di tutti che era stato in America, e Adriano Mazzoletti. Avevamo l'autorizzazione a annunciare noi stessi i dischi che sceglievamo. Però io vi devo fare una domanda, siamo ancora un secondo sull'America e la... Io sono un fanatico, ero un fanatico, perché oramai poi negli ultimi anni ho molto trascurato queste cose, di Chuck Berry. Che meraviglia. Ecco, ma però voi me lo avete trascurato quel filo là. Ma come mai? Cioè, ho l'impressione che l'amore è incredibile per il rhythm and blues, il soul, eccetera, eccetera. Ma forse perché intanto prevaleva il rock e così via, e quindi era meglio quello. Come si spiega sta faccenda? No, sai perché? Perché quando noi abbiamo cominciato a fare Bandiera Gialla nel 65, lo vogliamo dire che Chuck Berry è uno dei più grandi, c'è la tecnica chitarristica rock, insomma, ma non dire, soltanto, ma ha fatto delle composizioni straordinarie, ha fatto Johnny B. Goode, ha scritto dei capolavori del rock and roll. Pensa che io in un film che si chiama FFSS, ho fatto cantare a Roberto Benigni una canzone di Chuck Berry che è tradotta in, così fatta in italiano, si chiama Il Pillolo, sì, ma è una canzone, una cover di una canzone di Chuck Berry, perché io sono un grande ammiratore di Chuck Berry, anche se adesso purtroppo è un po' andato, perché l'abbiamo visto a Piazza San Giovanni, insomma, sì, eccetera. Però lui ha scritto delle canzoni scatolari, però è un personaggio meraviglioso, Chuck Berry, spiritoso, dinamico, insomma. Però sai che quando abbiamo cominciato noi con appunto il Rhythm and Blues, Chuck Berry era in un periodo oscuro, perché era nato con il rock and roll, era nato con Bill Haley, con Elvis Presley, con l'altro movimento, quello degli anni 56, 55, 56, quindi noi siamo arrivati nel 65 con i Beatles, i Rolling Stones e quindi un altro tipo di musica. E oimè, quando ero giovane in quegli anni andavo più dietro al rock che effettivamente a quello che avete coltivato voi, Don Renzo, che poi ho scoperto un po' dopo, perché uno non può nascere imparato. Germino, anche io ero della generazione del rock and roll, perché essendo adulto, inoltrato molto, e naturalmente le mie prime passioni accanto al jazz e alla canzone napoletana erano Fats Domino, appunto Chuck Berry, Elvis, i neri, Sam Cooke, eccetera, tutti questi. A proposito di Fats Domino, parliamo un secondo di New Orleans, città che ovviamente a tutti noi chiamiamo è carissima, che so benissimo, Don Renzo, quanto l'amiate e così via, anche se voi avete casa poi a Miami, non a New Orleans. Ma quando è successo Katrina e c'è stato per lunghi giorni, tra le tante vittime del terribile uragano, si era pure pensato che si fosse, per così dire, fregato e portato via Fats Domino, perché la sua casa era proprio in uno dei punti dove era avvenuta. Sì, sì, sono andato a girare lì, sia la casa che lo studio. Ma voi in quei giorni di Katrina, cosa avete visto? Cioè, perché io sono stato molto colpito da quella vicenda, che mi è sembrato rivelare un aspetto dell'America su cui non avevo molto ben riflettuto, la debolezza intrinseca anche di una parte dell'America. Mi sono commosso molto perché c'era scritto dappertutto RIP, che significa Requiescat in pace, anche e dappertutto i fan di Fats Domino erano sicuri che fosse morto e quindi avevano scritto dappertutto RIP, RIP, RIP, RIP, e era, naturalmente le case avevano galleggiato, perché Fats Domino abitava in una casetta modesta proprio nella zona più colpita dall'uragano Katrina. Quella è stata una delle cose più dolorose che ho visto nella mia vita, vedere le case dei musicisti e della gente di New Orleans più povera, completamente rovinati, con tutte le vestigia, le cose, i ricordi. Quella è una cosa terribile. Purtroppo oggi insomma se ne parla anche in occasione di altri eventi che ricordo del nostro territorio. Bene, però, insomma, adesso Katrina, infatti però io volevo arrivare esattamente a Messina. Eccoci tornati in studio e questo giorno di compleanno per il 24 abbiamo deciso di farci raccontare un po' di cose dall'altezza, sua altezza imperiale, uno dei principi della storia della radio italiana, cioè Renzo Arbore. Siccome no, ma non sapevo che tu eri appassionato di musica così. Oimè sì, perché io giovane di poche risorse ero e quindi tentavo con la musica di farmi tutto un film di fantasia, ma eravamo arrivati da New Orleans a parlare del sud e allora sì. Però c'è un tributo che io in questo caso devo fare, oimè, ancora una volta devo ammetterlo, Don Renzo, a mia madre, perché voi siete un filo rosso tra me e mia madre, e qui ci sentiamo un picchio, un'anticchia di Murolo. Lontana ma stai, chi vicina ta sente, chissà chi sto momento tu a che pensi, che fai, tu me misi in de vena, no valena che tu non mi pesa sta croce, chi a trascina per te. Ta voglio, ta penso, ta chiamo, ta vega, ta sento, the sun and annen c'è pienza che non castucchie non bon chi o pace trova. Ecco qua, era un pezzo di passione, un Roberto Murolo unplugged, come si direbbe. Insomma, a me Roberto Murolo, come Lorenzo, dovete sapere che il fatto che voi abbiate sempre difeso, quando nessuno la sentiva più, la canzone napoletana, era uno dei motivi per cui nostra madre, che pure diffidava molto delle vostre rotture, delle vostre trasmissioni un po' strambe, perché mia madre era una di quelle che diceva: "Bah, questo signore qua mi pare quasi comunista". Io dicevo: "No, ma si capisce che non è comunista". Dice: "No, a me pare un po' comunista". Dice: "No". Però quando c'era la cosa della canzone napoletana, mia madre diceva sempre: però è un bravo guaglione questo, no?". E quindi questa cosa, per questo la volevo ricordare. Ma quello che mi interessa capire è che voi avete difeso l'immagine del Sud quando sembrava che l'Italia travolgente o nella modernità non fosse più. Ultimamente vi ho sentito un po' critico, ho letto delle dichiarazioni del tipo: ho dovuto dire a mia sorella di dire che era di Modena, non era di, che non era pugliese. Questa riguarda una cosa di Puglia, pugliesi, ma se uno passi alla ribalta, esatto, un po' prepotentemente, ma se uno abbina le vicende pugliesi e il fatto vicende che pugliesi, il sì, Sud come Messina continua a scendersene per l'incuria e così via, diciamo la verità, questo Sud il non... Sud purtroppo soffre, leggo che finalmente i napoletani dicono che la colpa di certe tragedie napoletane e dei napoletani medesimi, di alcuni napoletani medesimi. Io sono arrivato alla conclusione che purtroppo ci sono napoletani sì e napoletani no. Lo dico come non napoletano, però ho avuto la cittadinanza napoletana anni fa e ho vissuto a Napoli e c'ho un'orchestra formata prevalentemente da 13 musicisti napoletani. E, insomma, i miei amici sono napoletani, da Luciano De Crescenzo a Marisa Lauito, a Antonio Ghirelli, a tutti i napoletani di Roma e ai napoletani di Napoli che frequento abitualmente. Quindi il problema è che noi sappiamo che purtroppo a Napoli c'è una Napoli no e una Napoli sì. Io parlo ancora della Napoli sì, ma perché sopravvive la Napoli sì? Sopravvive e sopravviverà, secondo me. Io spero che una canzone come Passione ci seppellirà tutti, perché sopravviverà a tutte le canzoncine e canzonacce che sono state fatte in questo ultimo periodo a Napoli da certi cantanti periferici che insomma non hanno certamente toccato le vette poetiche, melodiche e musicali della tradizione della canzone napoletana classica, tranne qualcuno, ma insomma è stato un periodo, è come nell'America di Gershwin, le canzoni di Kern, di Porter, degli altri, è stato un periodo meraviglioso, come nel Brasile di Vinicius de Moraes, eccetera. Ci sono dei periodi dei quali... Ora, queste canzoni non sono canzoni del passato, sono canzoni, come avete sentito dai versi, che eterne, sono come le poesie. Diciamo la verità, eterne. Sono eterne, hanno versi eterni. Ce n'è qualcuna datata, certamente sì, ma ce ne sono altre che non sono affatto, anzi la maggior parte non sono datate, sono opere poetiche, quelle di Salvatore Di Giacomo, Era di Maggio o altro, sono canzoni destinate veramente a sopravvivere, sono canzoni senza tempo, quelle che si chiamano evergreen in America, sempre verdi. E siccome sull'onda di questa anche la canzone italiana, cominciando da Esse domani a Piccolo grande amore, non sono canzoni. E siccome sull'onda della canzone napoletana e della canzone italiana sono 20 anni, tra l'altro, che girate il mondo con la vostra orchestra italiana, in questi 20 anni, ma come li avete visti un po' cambiare questi italiani all'estero? Che diciamo la verità, certo, sono soprattutto stranieri quelli che vengono ai concerti, però poi gli italiani all'estero sono, diciamo così, il cuore fedele del vostro pubblico. Ma come sono cambiati? Perché che sto leggendo un libro di Severgnini, Beppe Severgnini, che si chiama proprio Italians in 80 pizze, mi pare, è proprio sugli italiani che nel mondo, la vecchia generazione non è cambiata, la vecchissima generazione, quelli che sono i più antichi, quelli che sono emigrati in Australia, eccetera, però i nipoti, gli altri, eccetera, sono cambiati molto, innanzitutto perché non c'è stata e finita la mafia italiana, ahimè, bisogna citarla perché c'è stata e non si può ignorare, e quindi sostituita da altre mafie molto più, eccetera, e Beh, fortunatamente l'immagine dell'Italia che è arrivata all'estero è quella del Made in Italy, è quella della grande gastronomia e del decor dei grandi ristoranti, e l'immagine dei grandi architetti come Renzo Piano, l'immagine della Ferrari, insomma dei prodotti artistici di Pavarotti, del cinema italiano. Quindi adesso gli italiani, i nipoti o i pronipoti di quelli italiani, sono orgogliosi di essere di sangue italiano. Poi non pensiamo pure a Robert De Niro, Frank Sinatra, a tutti gli artisti che hanno sangue italiano. Io ho fatto adesso un documentario con Riccardo Di Blasi di un'ora e mezza sulle origini italiane del jazz, perché abbiamo scoperto che a New Orleans, quando è stato inventato il jazz, c'erano 60 musicisti italiani, di coloni che erano emigrati lì e che hanno contribuito, tant'è vero che il primo disco nella storia del jazz l'ha fatto un italiano, si chiamava Nick La Rocca. Nick La Rocca, sì. Proprio 1917, e Louis Armstrong nella sua biografia dice che ha imparato a suonare la tromba perché aveva sentito questo Nick La Rocca che suonava così bene con un gruppo di italiani, si chiamavano Original Dixieland Jazz Band. Quindi insomma adesso certo sono cambiati, e lì è rimasta una cosa inevasa, cioè il governo italiano, lo Stato italiano non ha mai riconosciuto come si doveva il grande sacrificio che hanno fatto tutti i nostri emigranti, che andando nel mondo, soprattutto le donne, non parlando inglese, non parlando la lingua eccetera, hanno contribuito a creare una cultura, a portare la nostra cultura fuori, a inventare delle cose, a costruire delle altre culture come quella appunto australiana eccetera. Interrompermi un secondo per dire una cosa. Io penso di appartenere a quella generazione che nel giro di pochi anni ha visto questo strepitoso cambiamento, che a me non persuade molto, poi non so come la pensiate voi e Don Reggio ce lo direte, ma perché erano gli anni in cui si capiva ancora, si toccava con mano, andando in America negli anni 60 eccetera eccetera, che c'era ancora per gli italiani un fenomeno di mancata integrazione, cioè la gente non parlava bene ancora l'inglese, magari che stesse lì da 50-60 anni e così via, lavori popolari. E poi nel giro di pochissimi anni, di 10 anni, non di più, da una parte l'immagine di successo degli italiani lì, e dall'altra il fatto che in Italia, che quasi ci vergognavamo di loro per lunghi decenni, improvvisamente abbiamo fatto come se tutto questo non fosse mai avvenuto. Noi siamo un paese nato avanzato, per così dire, invece che cambiato in 10 anni con questi fenomeni, sia dell'integrazione lì, che noi paese che diciamo no a chi viene, non so come dire, è tutto cambiato. Io ho questa cosa in testa veramente dai primi anni 70 alla fine 70. Devo dire che un grandissimo contributo al cambiamento lo hanno dato gli stilisti, o chiamiamoli Sarti, insomma Armani, Zegna e tutti gli altri. Grandissimo contributo, perché quando le strade, non soltanto di New York o di Manhattan, ma anche quelle di Sydney o di Pechino, le strade più belle sono con i marchi italiani, le cose eccetera, è chiaro che la considerazione per il nostro paese sale, perché poi è molto importante. E anche la ristorazione. La ristorazione prima, negli anni 60 che tu hai citato, mi ricordo che il ristorante italiano era uno, Gino. Lexington Avenue a Manhattan. Sono più numerosi i ristoranti italiani che non quelli americani o francesi, dovunque, e sono i posti dove in un decor straordinario, bellissimo, molto raffinato eccetera, si mangia la migliore cucina del mondo, che è la nostra. Torniamo un secondo a parlare di televisione e di radio, e la mia domanda è questa: io quando vedevo Speciale per voi e vi vedevo buttare sotto i più grandi nomi, quelli che facevano più grande successo della musica italiana all'epoca, era una trasmissione appunto bianco e nero, stiamo parlando del 69, sì, quindi c'erano tutti seduti intorno in circolo intorno al cantante ospite, con voi che gli facevate le domande e così via, ma erano domande pesanti, nel senso che poi i giovani in studio sembravano partecipare come se ci fosse veramente libertà di espressione. Mi colpiva tantissimo vedere la libertà di quelle domande, tanto che secondo me oggi una trasmissione così non sarebbe pensabile. Non credo che i discografici vi metterebbero in mano una star del momento senza contrattare le domande. È un po' pazzesco o è così, oppure era montata pure quella? No, non era montata, era lo specchio della della vivacità, diciamo, di quella generazione. Era la generazione che sfilava, che andava, eccetera, che manifestava la fiera di Milano, era la generazione di giovani che contestava il successo e anche spesso il danaro dei cantanti, dei divi, insomma era tutta un'altra generazione. E quindi quella trasmissione, che è stata la prima trasmissione libera dove si poteva parlare, il primo talk show vero nella storia della televisione italiana, e lì i ragazzi parlavano liberamente, successero anche degli incidenti, tanto liberamente che dopo 2 anni me la tolsero. Però tolta dalla Rai. Il fatto è che durò 2 anni. A un dirigente democristiano che la fece in tutt'altra maniera, preparando le domande. Il fatto è che durò 2 anni, però, che a me già sembrava una cosa pazzesca, perché stiamo parlando 7 anni prima della riforma della Rai, quindi che poi in qualche misura allenta un po' le maglie, comunque introduce il pluralismo, per così dire, nella radio, nella televisione. E io infatti dopo quella trasmissione ebbi 6 anni di silenzio, solo nel 76 ricominciai, quando ci fu la riforma della televisione con la seconda rete che diventava concorrenziale con la prima, fui chiamato da Massimo Fichera, che è il direttore della seconda rete allora. Ma dal 70 al 76 ho lavorato solo in radio. Ma come hanno potuto farvela fare, alto gradimento, fatta così? C'è stata circonvenzione di incapace, cioè voi e Boncompagni, cioè come l'avete spiegata a qualcuno che va detto andate lì e fate quello che volete? Io questo ancora non l'ho mai capito. No, allora erano anni impegnati, ti ricordi questa parola, tutte le trasmissioni impegnate, compreso la mia per voi giovani che avevo fatto. Come no? Inventato io, era diventata impegnatissima, assolutamente, si parlava di politica, di cose, eccetera, eccetera, mentre io volevo fare lo spettacolo puro. Ho capito, ma l'apparente leggerezza di quello spettacolo alla radio, io andai dal direttore della radio di allora, si chiamava Giuseppe Antonelli, e proposi di fare una trasmissione assolutamente disimpegnata, proprio controtendenza, perché erano anni in cui tu dovevi fare sempre proprio disimpegnata. Avevo un titolo che con Boncompagni avevamo il coraggio di proporre al direttore, si chiamava Musica e puttanate. Dico, non vogliamo sentire cosa, possiamo fare una trasmissione un po' crisi. Così si doveva chiamare. Da un modello che tu conoscerai, che è un film americano, si chiamava Elsa Poppi. Elsa Poppi, come no. Eccoci tornati in studio, stavamo parlando con Renzo Arbore della libertà e delle rotture del lungo passaggio attraverso la quale la radio e la televisione pubblica tra la fine degli anni 60, poi la riforma della Rai, iniziano ad aprire i propri microfoni, i propri video a espressioni un po' meno ingessate di quello di programmi che dovevano essere tutti prima preimpostati, scritti, autorizzati e controfirmati, per così dire. E questo mi dà il destro però per chiedere anche Lorenzo, ma che pensate di come è la RAI oggi? Non sto parlando dell'azienda, dei suoi responsabili, sto dicendo la tipologia delle cose che vanno in onda, il mito delle trasmissioni che si inseguono per fare numeri elevati e da quello... Quello è il punctum dolens, o punctus, ma non so, dolens, perché in realtà prima non c'era la dittatura del servizio opinioni, dell'auditel, dell'ascolto, e quindi ci si inventava delle cose per celebrare la fantasia, e poi si diceva poi vedremo se avrà successo o no, poi la gente insomma apprezzava lo stesso anche una cosa un po' curiosa, difficile. Non sarebbe nata probabilmente Alto Gradimento se ci fosse stato l'Auditel, perché agli inizi la trasmissione non era molto seguita, anzi veniva considerata una trasmissione di pazzi, la vecchia generazione la rifiutava. Io avevo il metro di mia madre che infatti ci guardava e spegneva, per così dire. No, vedi, ecco appunto. Quindi, eppure quella trasmissione ha rinnovato proprio la radio, eccetera, e così le altre cose che ho fatto io. Adesso, ahimè, la dittatura dei numeri, che riguarda la radio, ma riguarda anche la televisione, riguarda anche la tiratura dei giornali, riguarda anche il botteghino del cinema, riguarda anche l'incasso dei teatri, è diventata prepotente, troppo prepotente, e naturalmente per chi vuole fare l'artista diventa una nemica la dittatura dei numeri, perché l'arte non si deve sposare per forza alla quantità di pubblico che ti vede, anche alla qualità del pubblico che ti vede. Se tu hai, io dico sempre, 2 milioni di persone sveglie, vispe, diciamo a Napoli scetate, sono meglio di 4 milioni di persone addormentate che casomai capito non hanno non, così vogliono roba soporifera oppure la rissa verbale o d'altro eccetera. Quindi quello è il problema. Io trovo che la rissa verbale sia da bandire, perché siccome la rissa fa fare audience, però la rissa è quella che ottunda la testa, questo è la... Lo so, ma è chiaro che sì, ma non è solo la rissa, è la rissa, la TV scollacciata, quella che io chiamo hard TV, che è TV dura. E non c'è più TV soft, soprattutto nell'intrattenimento. Tutti cercano, non so se avete visto ieri la televisione, le trasmissioni domenicali, c'era la rissa verbale da una parte, la rissa verbale dall'altra parte, l'arena da una parte, l'arena dall'altra, la cosa eccetera, Fabrizio Coccola dall'altra parte, tutto così, perché quello vuole la maggioranza della gente. Però fortunatamente c'è una minoranza che non viene accontentata, che invece vorrebbe un altro, è quella stessa che mi ferma per strada e mi dice: ma come si fa, non possiamo più di vedere, esatto, la televisione eccetera. È una minoranza, capisco che è una minoranza in senso numerico, però è una minoranza che conta, che andrebbe comunque soddisfatta, coltivata con delle trasmissioni eccetera. Ed è una minoranza, adesso facciamo un ultimo inserto, diciamo così, di citazione, è una minoranza comunque che è capace poi di rivedere il grande successo, sto parlando in questo momento di quello che considero uno dei vostri, se non il più grande discepolo, cioè Fiorello, che ascoltiamo in un cameo che unisce insieme la storia passata, presente e secondo me anche futura della radio e della televisione italiana. Dov'è mai? Dobbiamo iniziare? Sapete com'è? Ho 80 anni. Come ti permetti? Scusa mai. Ho 80 anni? Lo dico solo io. Come ti permetti di dire sapete a 80 anni? Ma guarda questo pirla. Guarda che vecchi si diventa tutti, intelligenti no. Attenzione, aumentatemi il volume perché oggi sono sordo, va bene? Forza. E poi neanche tutti diventano intelligenti, eh? Tu Mario Bianchi quanti anni hai? 40. Speriamo bene. Sai, 40 sono sempre un'età critica. Lo mai. Non si sa mai. C'è sempre qualche dispiacere in agguato. Mamma mia. Io li ho già passati, ho 80 anni. Quindi. Allora partiamo, forza e corallo, andiamo. Buonasera e benvenuti alla nuova puntata dei Sogni nel Cassetto, amici ascoltatori. Allora, che cosa vuoi? Che cosa caspita vuoi, Mario Bianchi? Mi stai rompendo, lo sai? Lasciami andare avanti, dopo tagliano, no? Siamo nel 2005, si possono fare i tagli, mica sempre posso rifare, ho 80 anni. Ma hai detto i Sogni nel Cassetto, ma quando mai? Ecco qua, era un pezzo di Fiorello che imitava Mike Bongiorno, e così rendiamo omaggio anche a Mike Bongiorno. Però la domanda, Lorenzo, è questa: i fenomeni come Fiorello, che poi vengono riconosciuti, ma anche loro all'inizio stentano un pochino, poi vengono riconosciuti e non riescono a trovare un modulo però loro alla televisione, lo trovano alla radio, Ciclo Radio 2 e così via, però stentano, perché sbaglio o c'è... Il grande business vorrebbe, per così dire, spremerli, incasellarli, e a quel punto per loro diventa una lotta rispetto a come è organizzato oggi la radio e la televisione pubblica e privata, a tentare di non farsi fare a pezzi dai format ordinari. Lui ha fatto un po' la scelta che ho fatto anche io, insomma, di differenziare le cose, tant'è vero che si è accucciato dopo due programmi di grande successo in televisione, Fiorello eccetera, poi ha dovuto scegliere una nicchia dove era è più protetto da, appunto, dall'Auditel, dai numeri, perché se poco poco avesse fatto dei numeri inferiori rispetto alle precedenti edizioni, la stampa tutta e la cosa, ormai il sistema ti avrebbe detto: ecco, ma non è più il Fiorello di una volta, eccetera. Invece lui ha scelto di andare in un'altra emittente, quindi di fare una cosa completamente diversa. È una scelta che fanno tanti, è quella di accucciarsi o di differenziare o di passare al cinema è così, perché c'è. Io credo che prima o poi questa idolatria per i numeri finirà, perché poi qualcuno comincerà a scoprire che appunto i numeri non sono Dio, non sono tutto. Certo interessano certamente il motore della comunicazione, che è la pubblicità, però i numeri non sono tutti, perché la qualità del pubblico che ti vede è importante, anche la qualità dei consumatori, voglio dire. Quindi prima o poi qualche cosa succederà. Auspico un programma di grande risonanza, di grande successo, che non faccia molti numeri. Che non faccia molti numeri, esatto. Oh, domanda delle 100 pistole finali, Don Renzo, perché io sono sempre stato incuriosito dal fatto che il vostro primo gruppo musicale si chiamava, è vero, New Orleans Rubbish Band, però i New N e U iniziali stavano per nettezza urbana, infatti Rubbish Band era la cosa della monnessa. Allora il problema è, quando insieme ad alcuni matti molto simpatici, perché c'era Chiari, Catalano, Zampa, avete messo insieme questo gruppo inizio degli anni 70, ma pensavate che la monnezza era il simbolo dell'Italia da cui emanciparsi, oppure era una specie di maledizione che non ci leveremo mai di dosso e di torno, per così dire? No, sai che cos'era? Era proprio uno dei nomi spiritosi con i quali solitamente le bande di Dixieland, di jazz antico, si fregiavano. C'erano i Firehouse Five plus due, i Pompieri più due, capito? Poi c'erano i nomi dei musicisti, erano così, le vipere del jazz, le cose, e quindi ci sembrava che anche la nettezza urbana, la cosa, capito, facesse parte del proprio della retorica. Va bene, va bene. Sentite, qui c'è una specie di plauso generale, ma c'è una mozione d'ordine di alcuni nostri ascoltatori. Io vi giro, Don Renzo, perché alcuni si sono andati a frugare nelle vostre biografie e si sono resi conto che siete grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Però vi pregano di una cosa: almeno voi fateci il favore, non diventate mai cavaliere. No, cavaliere. E su questa conclusione, per così dire, no, noi ringraziamo davvero Renzo Arbore. Vi abbiamo fatto vedere una trasmissione un po' diversa questa volta, chiacchierato un po' in libertà. Si è scoperto che, oltre che di numeri, Giannino è appassionato anche un po' di musica. Don Renzo, Bacco, tanto, continuate a farci sognare e grazie ancora. L'appuntamento grazie con noi a domani. Io voglio solo specificare che grande ufficiale al merito della Repubblica. Sono stato fatto per la mia attività in favore della Lega del Filo d'Oro di oggi, esatto. Ancora dei bambini sordociechi. Quella è la cosa più importante che ho fatto nella mia vita, visto che tu hai parlato. Non è la più importante, ma l'impegno civile è sicuramente una cosa che vi contraddistingue. È la cosa più importante. Benissimo. Grazie tante, Oscar. Grazie a voi.